quando le fake news sono effettivamente maligne e usate per distruggere reputazioni, carriere, eccetera. E allora quello che diventa davvero importante fare è distinguere le fake news veramente nocive. Dovremmo bonificare un po' il nostro immaginario e capire quando una notizia diventa veramente malvagia e nociva, non tanto falsa o vera, perché noi viviamo appunto in una dimensione un po' falsificata, ecco, nella nostra comunicazione. Allora, avere consapevolezza, per esempio, che le informazioni che ci circondano sono dei prodotti, ci fa capire che come tali possono essere appunto non completamente corretti, quasi consumati, no? Ci sono notizie che sono consumate nel momento stesso in cui escono online o offline. Per cui questa consapevolezza mediatica e sociale ci dovrebbe aiutare a appunto capire meglio come navigare nel mare di fake news e di sirene, come ho cercato di indicare nel mio libro. Che cosa vuoi fare? Ti farà ridere. Tony, Carl ha preso un furgone per i tacos. Ero invidioso, sentendoti ho pensato che era quello che volevo fare. Io entro nella vita della gente col mio mestiere e l'adoro e voglio dividerlo con te. Hai provato una salsiccia andouille? No. È piccante. Ti piace il piccante? No. Non è tanto piccante, andiamo. Una vez más. Da ricetta anticrisi a moda, sbarcata da tempo in TV e nel cinema, da ambito di sperimentazione per grandi chef a volano per il recupero e la valorizzazione dei prodotti del territorio e dei cibi della tradizione. Parliamo del cibo di strada, con la nascita di Street Foodie Academy, un percorso di formazione per food tracker promosso da Street Foodie, azienda toscana, punto di riferimento nella ristorazione mobile in Italia, e dallo chef Fabio Campoli, volto noto di molti programmi televisivi. L'appuntamento è per il 6 novembre a Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo, la sede dell'Accademia. Allora ci siamo fatti raccontare lo spirito dell'iniziativa proprio da Fabio Campoli. Noi ci rivolgiamo a chi storicamente è già su strada con tutte le attività enogastronomiche, perché il confronto secondo me è sempre importante, ma poi ci rivolgiamo ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera e meno giovani, quindi a tutti quelli che vogliono intraprendere la carriera dello street food, anche agli imprenditori storici della ristorazione, perché noi, la scuola sorge in una fabbrica di mezzi dove ci sono talmente tante soluzioni da poter portarle anche nei ristoranti, nei parchi, nelle attività ricreative, quindi il cibo e la cucina, l'enogastronomia che sale sui mezzi. Perché voi lo sottolineate, lo street food è di tendenza, però non ci si improvvisa. Il nostro, diciamo, slogan di Street Food Academy è stato proprio scuola per imparare business da cibo da strada, quindi non puntiamo sulla ricetta del panino, del fritto soltanto, ma mettere in condizione a chi acquista un mezzo, chi già possiede un mezzo, di vedere tutto, la strategia, l'igiene, i permessi, lo stoccaggio, i flussi, il packaging, le possibilità che il territorio nazionale offre come prodotti. E noi abbiamo chiamato infatti format di Street Food Academy, non corsi, perché pensiamo che chi si rivolge a noi può partire veramente dalla fabbricazione a tutte quelle competenze che ci occorrono per fare business, quindi non soltanto il gusto è collegato all'igiene, alle scelte commerciali, al packaging. Quanto questa, che lo abbiamo detto, una tendenza, una moda, può però essere una scommessa, un'opportunità per il patrimonio gastronomico italiano? Per me lo è, perché pensate ai mezzi che vanno su strada e tutta la nostra variegata penisola, che dalla Val d'Aosta al Veneto fino alla Sicilia e la Sardegna ci fanno riscoprire i prodotti del territorio. Cioè, questa è una possibilità, perché le combinazioni sono tantissime, qualunque prodotto noi prendiamo del territorio può essere espresso ed esploso in uno street food, le declinazioni sono tantissime. Dalla Lego House al Tamagotchi anti-inquinamento. Nella seconda parte parliamo di cose da piccoli che piacciono anche ai grandi e poi di un festival che guarda al futuro di noi consumatori tra servizi digitali e dati personali da proteggere. Tra pochissimo, subito dopo la pausa. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, consapevoli è meglio. Questo uno degli slogan di Festival Futuro, la rivoluzione delle cose. Nuova edizione del Festival di Altro Consumo a Milano, Unicredit Pavilion, 4 e 5 novembre prossimi. Un'occasione di riflessione importante sui cambiamenti che il mondo digitale, soprattutto il mondo dei prodotti e servizi on demand, ha introdotto nelle nostre vite da consumatori e da utenti della rete. Sapete per esempio che 9 persone su 10 dichiarano di barrare la casella termini e condizioni di utilizzo delle app senza leggere le condizioni per la privacy e che dall'altra parte fra gli utilizzatori dei social network solo il 26% si fida dell'uso che verrà fatto dei propri dati personali. Ivo Tarantino di Altro Consumo. Altro Consumo è da sempre in prima linea per quello che riguarda l'innovazione dei consumi dei cittadini italiani e il tema dell'Internet of Things, quindi di internet che esce dal computer e entra negli oggetti, dagli smartphone ai device che indossiamo, agli elettrodomestici, alle auto, è un tema che ci interessa molto perché rivoluzionerà, se non ha già rivoluzionato, la nostra vita quotidiana e perché dall'altro lato se internet entra dovunque, ognuno di noi genera quotidianamente, magari senza rendersene conto, una mole infinita di dati che sono fonte di ricchezza per le aziende e vorremmo capire insieme alle aziende, alle istituzioni, ai media come questi dati possano essere una fonte di ricchezza anche per i cittadini consumatori. Ci saranno dei dibattiti, ma ci saranno anche delle esperienze, ci saranno dei corner nei quali i cittadini potranno capire che cosa significa ad esempio telemedicina, che cosa significa smart home, che cosa significa la tecnologia che entra nelle nostre case e dall'altro lato vorremmo che i cittadini acquisissero consapevolezza e imparassero a tutelare i propri dati per fare in modo che quei dati abbiano sempre più valore per loro e per chi li utilizza. Quindi parliamo di risparmio gestito, parliamo di sicurezza del risparmio online, parliamo di tecnologia e di robot che possono aiutarci a investire meglio i nostri risparmi, ma parliamo anche di salute, quindi parliamo di robotica applicata alla medicina, parliamo del diritto dei cittadini ad esempio a esprimere il loro giudizio grazie alla rete sulle prestazioni sanitarie, parliamo anche di arte e di cultura, di food delivery, quindi delle app che ci portano a casa il cibo e di smart home, appunto, di smart city. Il programma è online sul sito di Altro Consumo e c'è la possibilità, anzi invitiamo tutti a preaccreditarsi e a venire all'Unicredit Pavilion per scoprire insieme a noi il futuro e quindi la rivoluzione delle cose che sta entrando nelle nostre vite. Focus sui trend. Sono prodotti e servizi da piccoli che sognano in grande, possiamo definirli così, protagonisti del focus sui trend di questa settimana. Al centro c'è il mondo dell'infanzia, non solo e non sempre come target di consumo, ma anche come ispirazione. Li ha selezionati per noi Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Bentrovata a te, un saluto a tutti. Allora, partiamo da un prodotto che ha già incuriosito la stampa di mezzo mondo. Di cosa si tratta? Si tratta di capi per bambini che sono estendibili dai 6 ai 36 mesi con una durata nell'arco temporale, quindi con una plissettatura particolare che si estende e quindi il capo può essere vissuto nell'arco di 3 anni. Lo ha progettato Ryan Mario Yasin, laureato al Royal College of Art. Il suo background di ingegnere aeronautico viene, come dire, offerto, reso disponibile a un progetto nel mondo dell'abbigliamento per l'infanzia. Sono capi impermeabili antivento, questi della prima collezione, e quindi l'idea è che possano essere adattati su bambini quando diventano più grandi, ma che siano anche di ispirazione progettuale, si intende, anche per l'industria dell'abbigliamento, per ridurre l'enorme quantità di rifiuti generati. Link e immagini come sempre sulla nostra pagina Facebook. Il prossimo caso. Urban Canary si chiama, un canarino urbano, un piccolo giochino, un piccolo canarino che può accompagnare il bambino come un compagno di giochi durante tutti gli spostamenti, nel passeggino, al supermercato, nei parchi, e permette ai genitori di controllare la qualità dell'aria che respirano i propri figli, perché di fatto l'inquinamento è una preoccupazione crescente nelle aree urbane e i bambini sono ad alto rischio. rischio, specialmente i bambini più piccoli. Quindi un ricercatore e designer inglese, Daniel Godelmeier, ha creato questo uccellino di plastica che traccia l'inquinamento ovunque va. C'è un monitoraggio continuo, un collegamento attraverso un'app con lo smartphone dei genitori, per cui quando il livello di inquinamento, come dire, viene superato, sicuramente anche il canarino si ammala, lancia un segnale che da verde passa a rosso, però arriva una notifica anche sullo smartphone dove i dati possono essere analizzati, ma anche insieme a informazioni sulla tipologia di inquinamento e anche a consigli pratici. Una specie di Tamagotchi dell'educazione ambientale, perché ovviamente è uno strumento che fa leva sulla consapevolezza del bambino, dei genitori e della comunità, appunto. Sicuramente in questo senso la salute, l'ambiente, la convivenza nei piccoli trovano un nucleo più a rischio, e quindi l'idea di pensare delle soluzioni concrete porta anche a utilizzare dei linguaggi, delle proposte che uniscono l'utile al ludico. Ci spostiamo in Danimarca, nel quartier generale di un brand senza età, diciamo così, il brand simbolo delle cose da piccoli che piacciono anche ai grandi. Parlavo poco fa di ludico, Lego, ecco, svelato il nome del brand, da 100 anni di fatto lavora in quest'area ed è stata recentemente inaugurata a Billung, che è la città nella penisola dello Jutland che ospita la sede dell'azienda, ma anche il famoso parco Legoland. Ecco, è stata inaugurata questa casa del mattoncino, no? Home of the Brick. Vuole questo grande spazio, questa grande architettura veramente spettacolare, come è proprio una vera casa Lego, no? Sembra proprio costruita in versione macro con i mattoncini Lego. E qui l'idea è di utilizzare l'architettura come stimolo per la creatività e l'apprendimento. Sono 21 blocchi bianchi strutturati per aree diverse. È stato realizzato nel centro città, proprio nel sito della vecchia sala comunale, quindi c'è l'idea di portare un gesto di inclusione anche nei confronti della comunità locale, pensando proprio un'espressione di questa comunità locale anche all'interno della grande piazza centrale di 2000 metri quadrati. Quindi c'è l'accessibilità, l'esplorazione, l'aspetto ludico, ma anche l'utilità. Dai giocattoli agli accessori con un brand del lusso inglese, siamo a Londra, Bond Street, quindi il cuore dell'esclusività britannica, in un'atmosfera da favola, raccontaci Sabrina. Anche in questo caso il mondo dell'infanzia, le visioni, le fantasie dell'infanzia sono di ispirazione. Ecco, come hai detto bene, qui siamo proprio nel mondo del lusso, Smithsons, quindi pelletteria, che vuole fare un omaggio alla gioia, alla scoperta del viaggio. Ovviamente valigie, borse possono essere compagne di viaggio, ma in questo senso il viaggio non è soltanto fisico attraverso la città Londra, ma anche mentale ed emozionale. Si sono ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie per riproporre una giovane donna che si perde nelle strade di Londra alla ricerca di Buckingham Palace. Questo ha accompagnato questo video di più di 4 minuti nella loro promozione della nuova collezione. L'ultimo caso invece è un'installazione artistica che ci invita a guardare il mondo dal punto di vista dei bambini per sollevare la nostra coscienza civile, civica. Qui ritorniamo ai macro temi, alle emergenze, come dire, globali. C'è il tema della cittadinanza, dei diritti umani, dietro questa riflessione artistica e politica, se vogliamo, del francese J.R., questo artista che conosciamo da molti anni, con grandi installazioni, graffiti, fotografie in molte capitali del mondo, e ha appena inaugurato un'opera sul confine fra Stati Uniti e Messico, un viso di un bambino, un'opera alta 22 metri che dà il nome alla stessa installazione, Chiquito, e questa opera è visibile dal lato degli Stati Uniti. Siamo a Tecate, nella contea di San Diego. Per riflettere riflettere sul tema dei confini, sul tema delle migrazioni, una riflessione, una provocazione, una sottolineatura all'amministrazione, alle decisioni dell'amministrazione Trump di sospendere il programma che tutela gli immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti in minore età. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Alla prossima, a presto. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per la riflessione finale il sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Grazie Maria Luisa e buonasera ai nostri radioascoltatori. Questa sera, me lo hai anticipato, ci racconti un bel progetto che ha a che fare con l'innovazione e i suoi protagonisti. Sì, e anche sul ruolo possibile di aziende che un tempo definivamo illuminate, un po' sulla scia, diciamo, olivettiana, e che oggi credo debbano essere le aziende del futuro, cioè un modo di fare azienda, come nel caso di Fantoni, che ha lanciato questo progetto che si chiama On the Hub, che è diventato anche un bel libro, e soprattutto è l'incontro con 27 protagonisti dell'innovazione pescati da Elisa Massoni, che ha curato il progetto, quindi poi anche il libro, da tutte le dimensioni vitali che stanno in qualche modo crescendo, quindi il cibo, l'etica, i talenti, il co-working, il fare giornalismo in modo nuovo, raccontare le storie, fino al progettare gli spazi. Quindi 27 importanti protagonisti di questi diversi mondi che si incontrano, che dialogano e danno al mondo aziendale, io credo, un orizzonte nuovo che è di un'innovazione incarnata nella vita quotidiana. Ecco, sono progetti che magari tempo fa rimanevano, come dire, nelle stanze chiuse negli uffici di molte aziende, che invece adesso le aziende hanno imparato a raccontare per raccontarsi. E se posso dire, in questo caso possiamo essere orgogliosi che quella fascia di aziende medie, italiane, familiari e manageriali che un tempo incarnavano il Made in Italy solo dal punto di vista dell'estetica, Fantoni è una di queste, sicuramente oggi capiscono che non basta il lavoro sul prodotto, cioè non basta il lavoro sul saper fare, fatto bene, ma bisogna agganciare a questo anche un modo nuovo di ragionare, di fare incontrare le discipline. Credo che questo aspetto oggi sia rilevante e che tante aziende italiane lo stiano facendo. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere a Vere finisce qui. A domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.